avanti. Se stai uscendo malissimo, che sei? Che sei, non capisco niente, ciao. Auli, uli. Come va? Io sto preparando la pasta. Ho lasciato acceso, non ho sentito nessuno ancora. E neanche ieri, mi pare. O l'altro ieri, boh. Papà, già va bene comunque. Stavo sistemando due punti stasera. Stiamo facendo ricetta. Due pacche batterie riportate WhatsApp. Gli hai rifatto, gli hai cambiato gli accumulatori dentro? E li hanno fatto dannare, sia uno sia l'altro. E per gli ISO 411 è l'effettivo, portato dai 2 metri. Capito? L'ho fatto, me lo vai, ho fatto usare le batterie dentro, stamattina. Questa cosa staccava un filo, stavo facendo diventare esaurito. La fretta diceva benissimo, ho messo 30 euro di batterie in più modello e nell'altro invece 21 me l'hanno fatto pagare ieri. Eia, perché li fanno sigillati in modo da comprare un pacco batterie nuovo. Il problema è che quando non li trovi più, in teoria ci dovresti buttare la radio. È tutto per vendere. Vabbè Antonio, io sono i Fornelli, dai, ti saluto. Lascio acceso qua, in ascolto, sempre qualcuno. Ciao ciao. Ehi, ciao, ci vediamo. Alle tutti le buonasera. Buon pranzo, buonasera. Chi è? Sì, che stai scendendo male lì, ma male lì. È Luca. E vale lo trattore. Io lo capisco, lo sento bene, va bene, più vicino anche. L'alimentatore deve essere degusti da solo, Marco. Sì, non è che sia l'alimentatore, è l'antenna che ti dà problemi, perché sembra che sia quelli frequenti, leggermente. Invece sono sapere che c'è in quell'antenna, e ti può uscire così. Metti un'antenna come si deve, fai un difono, tendilo. Non ci vuole nulla a fare un tempolo, basta prendere un po' di cavo elettrico, 2,64 e braccio, e c'hai uno in stazionario. Ah, dove l'attacco? Sì, qua che ti ho detto che l'attacchi, dove vorrei agganciarlo. Dove si aggancia il tempolo? Come dire si aggancia? In orizzontale, cioè, non lo metti a L, non lo so. Vedi tu, però mi prendo la canna alla testa e te lo fai in verticale, se ci vuole molto. È un casino, non c'è, non c'è spazio, non lo posso attaccare. Una magnetica, no? Sono busta di qualcosa del genere, ma è stata la magnetica, no? Se non c'è il ferro, è inutile agganciarla. La politica c'è, cioè, questa butta di giù il fattore aria. Evidentemente con la magnetica, no? Come se fosse facendo massa. Sì, è un bel cupo. Ah, pagava. Comunque, questa è una rigliola. Capisco solo che questo trovi il mascolare, non riesco a buttarla giù, non riesco a buttarla giù. Se non riesco a buttarla giù, il mascolare è una cosa ben strana. O l'antenna che ha problemi, non lo so. Se va alla casa tua, vedi se riesci a cavare qualche cosa. Io ho un stile di antenna per macchina, non è neanche uno, meno di basetta, niente, non c'è più nulla. Prima ne avevo solo 4 di quell'antenna, l'ho tutta regalata. Sì, tagliata, protettiva, è un quindi guarda che c'è un giro, c'è stato il controllo, è appunto la strada in quel posto, è collegato poi al campo. È chiaro, non lo so, mi sembra proprio, che si dice, meglio di cose, più o meno dalle notte. È in cottura. Capata. E io, e tu Antonio, sei in cottura oppure no? No, no, sono a serio. Ieri mi sono trovato a fatto, capito? Mi hanno invitato fuori. La roba calda, cioè col caldo che c'era, la roba ghiacciata, non è che faccia bene. Capito? No, io ghiacciata non ne bevo mai, né acqua né nulla, deve essere fresca, ma ghiacciata no. Faccio mai aspetto, piccoli sorsi, certo se dai la boccata può venire una vasocostrizione immediata, si può svenire come quella volta che eri svenuto lì, che ti sei svegliato al pronto soccorso. Ci può essere uno scompenso nel cuore, quella vasocostrizione, capito? Sì, strappa, già lo so. Ma io ho bevuto le latine, quelle delle latine quando sono calde, capito? Fanno cagare in pratica, capito? Ti fanno più male di fuoco, più senza essere pronto, capito? Perché non è la volta del freddo, capito? E quindi abbia cure, allora sono un mezzo come ero prima, senza toccare niente, almeno sono tranquillo e non ho nessun sintomo, questo momento è un mal di culo, lo penso mi appunto una cosa, la notte, cioè, ma proprio non sapere, cioè, con il patacacci. Un mal di culo, non è che ti appunto qualche negro no dietro? No, patacacci, ma appunto. E non anche con il lenzuolo, ma appunto tranquillamente con il lenzuolo addosso. Eia, sì, poi il papataccio è ancora più fetente della zanzara, perché ti fa un bozzo notevole, capito? Mi ricordo quando si va in campagna lì, sono i papatacci, si fa proprio il bozzo. Cazzo, sei proprio, hai già capito, me. Poi il papataccio è puzzinoso perché si dice sia portatore di malattie, sai, pungono i cani, i cani li portano la leishmaniosi nelle campagne, è più lonfio, quindi è la reazione del sistema immunitario maggiore e ti fa quella bella bugna, che pitorzo lo metti. Ok, già capito. Ho fatto un bel bomboglione, e sono stato come stavo toccato di vedere i cazzo di tempo, ma appunto, ma la sera già non è stato, deve essere appeso in qualche parte, la notte l'attento, con qualche, quello che mi capita a mano di un filo, e io non sarà falso. Ma tu non ne hai zanzariere? E se non ne hai, non usi il fornello con le piastrine anti-zanzara, anti-insetto, no? No, è proprio quella zanzariera grande, capito, dove ci sono quei due nero celesti, e poi c'è quella specie di grassa, poi c'è la corrente elettrica, capito? Quindi in pratica il colore attiva l'insetto, poi l'insetto viene come va a contatto di questa piastra metallica, ma su, è la crepa. Ne volevo comprare una di quelle lampade fulminescenti, però le zanzare non ci vanno. Guarda, è stato da me più e più volte in una stanza dove entravano zanzare, le uniche che si buttano sulla luce e quindi rimangono fulminate sono farfalline, qualche mosca, insetti notturni, con ali tipo coleotteri, no, però le zanzare non si buttano sulla luce, si poggiano sulle pareti della stanza, viste più e più volte, e aspettano che ti addormenti, no, quando spegni la luce cominciano a scendere a pungere. Quindi la lampada fulmina insetti è solo per scena, mi, Antonè. La zanzara si affutti. Sì, magari è tirata dall'esterno a entrare nella camera, però poi aspetta il buio per depungerti. Quando spegni la bajur, no? E quindi uso piastrine, quei fornelletti con le piastrine oppure con la bottiglietta di ricarica, no? È un insetticida veramente blando, perché all'uomo non fa niente, le zanzare le uccide. È come un gas nervino, mi. Comincia a vedere la zanzara che comincia a tremare, perde la coordinazione delle zampe, poi a un certo punto cade per terra e muore. Sì, io ti amo la tua politica, che faccio? Questa zanzara già l'ho vista. Si sa che c'è un pagino di stato di calore, capito? Non è appesa, è stata appesa. L'avete peccata in pieno, invece non è nella traiettoria oscura, perché infatti che è entrata dalla porta del terrazzo, capisco che la lascio socchiusa, che potete uscire tu a fare i bisogni questa notte. Capisco che non bisogna entrare in salone, in cucina, ogni volta devo stare a recuperare fisco, lo saranno. Il vapore diventa l'altro, fa quello che deve fare, poi torna in terra, senza. A meno che a volte lo mastilla, mi fa capitare solo giù, solo che ho paura per le zecche, per la pizza. Eia, Antonio, scappo in cucina, dai, ciao, dopo. Eia, dato, forza. Hola. Attenzione, binario 10, c'è qualcuno? Sul 10? Che uranio? Ciao Francesco, buonasera, siamo passati qua, stavamo facendo le prove. Vedi un po' come ti arriva di radio Massimiliano, se ti piace la modulazione, se è bella. Guarda un po' Francesco, dammi un tuo parere, dai, che sei lontano, vedi un po' come mi ascolti. No, ecco, che tu sei molto più lontano, capito, così ascoltavi meglio, dai. Ok, riprendi qua. Hai sentito il paragone? L'hai sentito? Ciao Francesco, un abbraccio, buonasera, ben ascoltato un po' tanto. Non mi posso trattenere molto perché devo uscire, però giusto per un saluto. Hai visto cosa ti ha detto Francesco? Che comparazione ti ha fatto? Quando uno, un corrispondente, ti fa la comparazione al mio livello, tu sei da 10, basta, ho finito. Come ti ho già detto poc'anzi, praticamente hai le tonalità medio-alte e medio-basse talmente perfette che sembrano MC60, preciso, hai la mia stessa modulazione. Quindi tu paragona la mia modulazione, a parte la timbrica che possa avere un po' l'acuto più alto, ma tu con la regolazione dei toni che abbiamo fatto sei perfetto. Va bene, sono contento allora. Ascolta a me, Cla. Ho messo la calza, no? L'alimentatore si sente ancora così molto? No, migliorato tanto, però con la cuffia antisoffio, che sicuramente domani mattina faccio un salto dove lo comprati io e te la prendo. Con la cuffia antisoffio stai pur certo che vai a migliorare ancora di una percentuale non elevatissima, ma un 10% ancora migliore, superiore a questa. Ah ok, là, va bene. Francesco, io sto usando un MB più 5, mi capito? Io il segnale non te lo posso dare perché non è perfettissimo questo, capito? Quindi non ti do il segnale, ma se fai un passaggio con Claudio io commuto con l'altra radio, così te lo do perfetto, ok? Guarda Francesco, a me sei Santiago 9, lui ha lo Smith un po' più avaro, però penso che arrivi più forte da lui, perché lui è più visivo rispetto a me da te. Capito? Però qua sei Santiago 9, radio 5 perfetta Francesco. Amico di Massimiliano, te lo può dire lui, per me è una persona validissima a modo e anche molto molto seria, nel senso che non ruba niente, mi capito? Vai Massimiliano. E un attimo, stavo facendo una cosa, vai, ecco, ero impegnato. Allora comunque sull'altra radio sei Santiago 9 qua, radio perfettamente 5, dipende cosa devi fare, se devi riallineare una radio no, ma se devi fare tutti gli altri tipi di lavoro sì. Ci sentiamo, va bene? Quindi quando ci ti do quell'altro là, già mi hai capito, va bene, avanti Francesco. Ciao, quando le regolo io le cose vanno sempre bene. Confermo. Positivo, là. Ok Francesco. E invece il tuo caro amico, che non ho più sentito, ma è qua, sì, Sardegna. No, no, ho chiesto perché Francesco, no, scusa, non ho più sentito, ecco perché, no, più o meno in genere. 2, 3, 4 persone nel canale 10 tutti i giorni ci siamo, ecco, però siccome non l'ho proprio più sentito da nessun'altra parte, ho detto ma è strano, boh. E sapevo una cosa del genere, dai, che l'hanno fatto dire tutto, non so, e poi mi avevo mandato un messaggio, se l'ho venduto tutto, ha preso il suo compleanno, gli ho mandato lì gli auguri su Facebook, mi ha anche risposto, però poi in frequenza parlo non l'ho proprio più sentito. Questa settimana o la settimana scorsa? All'inizio di questa settimana, boh, non lo ricordo bene, comunque da poco, dai. Ma c'è, io ti devo lasciare, devo scendere il piano di giù, che c'è mia moglie che mi sta suonando a scendere, dai. Ci sentiamo, grazie per le due chiacchiere, se lo senti salutamelo. Entra più spesso, dai, Francesco, tanto le 10 già ci siamo più o meno tutti i giorni, dai, ok? Ci sentiamo, buona serata e buon weekend. Ciao Fra. Eccezionale, Antonio. Va bene, va bene, va bene. chiama Edgar. Cazzo, ieri in 80 metri avevo segnaloni, oggi ci sono. Cazzo, dicevo, ma c'era qualcosa che non mi quadrava. Ciao. Praticamente stavo andando senza attaccare il commutatore d'antenna. E gli dico, ma come ci passi già arrivando? 9:10 in 80 metri. Va bene, ciao T, buonasera. Ciao, buonasera a voi. Vabbè, come vanno questi calcoli? Stavo calcolando. È passato, ci sono T. Mi hanno piegato in due a me all'Isola Rossa, eh. Cazzo, piegato in due. Piegato in due. Una goccia allucinante, guarda. Allucinante. Sono stato più di un mese bevendo quest'acqua di tempio, cazzo, mi faceva schifo, però sono riuscito a... Allora, adesso ti ribombardano, è una cazzata. No, c'è l'acqua di Fiuggi che è molto migliore, solo che non facendo tempo a comprarla adesso. E ti, guarda, quella di tempio è specifica per il calcolo dei renali, eh. Infatti la chiama in leva di renaggio. È eccezionale, io me la portavo a bidone da 10 litri e ne ho bevuto tantissimo, ma ti dico che mi ha purificato alla grande, anche le budella mi ha lavato, cazzo. Io facciamo seminario, voglio sentire il microfono. Tu conti come due di picche giocando a briscola. Buonasera, certo. Giocando a briscola, adesso, siccome a briscola io non so giocare, stai attento a quello che dico. Vabbè. Ovviamente sto tornando da San Paolo, vittoriosi come sempre, giustamente, però perché? Anto, ma perché ti prende qualche bustina in più, diciamo che superi quell'arco di tempo per poter poi rientrare a casa e mettersi al divano e piangere, cosa vuoi dire? Anto, guarda, ti sto dicendo che ci sono passato le lacrime, un dolore, cazzo, sembrava che me la stavano, guarda, toppando, un dolore da paura, mi ha piegato in due, 5 anni fa, non è vergogna, mi ha piegato in due, a Trinità d'Agurto, all'Isola Rossa, più o meno di questo periodo, una cosa allucinante. No, va bene, piangendo no, però il dolore è... Io sono una persona che il dolore lo resiste abbastanza, però quando mi lamento vuol dire che è anche troppo. Cazzo, ti, lo so, anch'io no, però il dolore è tanto, il dolore è fortino. Ho mandato un messaggio a Massimiliano, non so cosa sta facendo, non l'ha visionato ancora. Va bene. Aspetta che adesso rispondo Antonio. Antonio, per agonato, ha gli stessi dolori al parto, quindi ti puoi immaginare a quanto mi hanno detto, No, io ne ho avuto, allora, è partito nel 2013, il primo che mi è arrivato, poi nel 2015 e adesso nel 2019, però questi qua sono più frequenti, nel senso che l'ho avuto già troppi giorni, prima mi durava un giorno e via, forse anche l'anno scorso, lo sai, nel periodo di dicembre però, perché mi ricordo che sono venuto qua a casa, c'era mio padre e compagnia cantanti che stavano scottendo le olive, gli ho detto, oh, guardate, scusatemi, ma io non vi posso dare una mano. Io ho preso una bottiglia e mi ho bevuto quasi un litro e mezzo d'acqua, quasi, non dico tutta una piatta, ma due o tre sorsi, dai, diciamo. E poi mi sono messo a fare l'olive, ti puoi immaginare? Niente di strano, anche quello, boh, si è ingrandito, adesso vediamo. Se mi fa male prendo il Toradol. Sì, il Toradol, sì, a me faceva un bel bene. L'importante è che non siamo usci l'uccello. No, vabbè, però tanto le sto prendendo un mese di queste pastiglie qua, quindi giusto per cambiare. Non ricordo quante gocce si devono prendere, adesso vediamo, lo devo leggere. Il Nimedex sto prendendo io, ancora oggi, perché una mezza sciatica, quindi se non mi aiuto con l'antinfiammatorio almeno 2-3 volte alla settimana non riesco manco a camminare, però del Toradol non ne approfittare, ti capito? L'ho già preso tempo fa, non mi ricordo se erano 10, luce, non mi ricordo, guarda, devo leggere. Lo sai di quanto è forte Massimiliano? Si assomiglia molto alla nostra modulazione, no? A me e a te. E addirittura devo disinserire l'NB. L'NB, se no me lo fa distorcere, no? Come quando lo io perlomeno lo disinserisco quando ci sono i baracchini con l'eco, no? Ma basta abbassare un po' l'amplificazione, tra. Gliel'ho fatto abbassare, però è troppo moscia. Tanto questa radio ce l'abbiamo io e tu e Giulio qui. Basta disinserire l'NB, ma gli altri lo ascoltano una canonata fortissima. Addirittura i toni li deve tenere a 5, noi li teniamo a 1, a 2, lui a 5, immaginati tu che differenza che c'è, per avere proprio gli acuti belli, belli fortimi. Bene, bene, sì, mi ha mandato un messaggio a Focanti, che mi ha detto che l'ha recuperato, non so come avete fatto, però credo che Antonio si sia messo d'accordo con te o non so, comunque so. L'importante è che è arrivato a destinazione, perché io sinceramente non ci avrei fatto dargli. Non ti preoccupare, la montagna è venuta da Maometto. Maometto non è potuto andare dalla montagna, la montagna è venuta da Maometto, vero tu? E se non ce l'avevamo messo d'accordo, perché io mi ero piccato lì, stavo arrivando quando sei arrivato tu. Che c'avevo quelle commissioni da fare. Adesso, 10 minuti fa sono rientrato. 10 minuti fa. Capito? Pensavo c'era Massimiliano per fare un'altra prova perché l'abbiamo fatta proprio di corsa. Va bene, che anche io c'avevo mia moglie a fare un paio di visite, c'avevo l'altra macchina in campagna, che è un casino, in Italia si viva la macchina, quindi l'hai visto, abbiamo fatto Giambo, Dorra. Va bene che va bene, comunque, almeno ti ho visto ancora. No, ma tu vedi, stavi andando nella Tascaglia da lì manco 8 anni, io lì non ci sono più, non ho piano nella scala G, adesso sono nella scala F a fianco al secondo, capito? Le antenne sono rimaste sempre su. Però ho cambiato scala, dai. Sempre a Torri, da Bagelli, chissà che è Bagelli, quando è qua sta sempre abbaiando, veramente. Ma poi si tracca, infatti abbaia, no? Quelli che passano nella strada dall'altro giorno, abbaia, come fa campagna, se tutti si passano e tu abbaccio, capito? Allora poi si gocca, si drommi, anche il tracco, va bene. Non so, non mi ha risposto Massimiliano, non l'ho manco visto, adesso lo chiamo, spero e prendo. Ehi, vabbè, non è che io sto per sentito a vedere come risuonava. Ah, tu la stai utilizzando. Ah, sì, però sei messo il segnale. Vabbè, fai da 3 a 7, adesso lo usi, che più chiaro il radio è migliore, va bene. Su in verticale. Ehi, non può entrare Massimiliano, domani ce lo fa sentire, se c'è gente. Non fa niente. Sì, è fedele, Anto, va bene così, lascialo così. Però ricordi, portalo a casa, ti ho detto mille volte, cioè usalo, provalo, però insomma, te l'ho detto Antonio, nel 48 ci permette il bip, ci permette un sacco di cose, quello no. Il 48 prendi un benicolpi, quello no. Tu fatti la fai tu e poi dai a parte. Vero? e poi lasciami dire. Oh, ciao tia, beh, allora. Secondo me dovresti abbassare appena appena, Poi, vabbè, sto dicendo una cosa io, ti sento bene. E allora tu dici la cosa tu. Però vabbè. Ah, lasciamolo così, io lo tolgo quando lo sento l'MB. Ma c'è una bella modulazione, Non lo devo abbassare perché è troppo alta. Che io l'ho tolto, però io l'avrei abbassata appena appena. Cosa devo abbassare? Il microfono o mi chiedi della radio? Devo abbassare appena appena il microfono prima. Sì, non credi, ma si vede, non credi un bel. Allora, vai, non parli di sopra, vai. Ciao Antonio, buonasera, ben ascoltato. Guarda, ho abbassato un pelino, Tino. Come ne scarda? Grazie. Cazzo, porti sfigati, Ma io allora la sento bene. No, io lo sento nel mio, lo sento magnificamente. Veramente fortissimo. Abbassalo, mettilo a 3,5 il microfono. È già abbassato, Cla, 3,5. Guarda un po'. E perché stai innescando adesso? Io sono in gioco, non ho toccato nulla, me, Cla. Io non so, non hai toccato niente. Sto innescando, sta. Ma l'hai fatto quello che ti ho detto in quello spezzone? Vulcanizzante, direi messo. Eia, messo. Adesso si è andato bene. Ti sto ascoltando senza NB, e vabbè. Però con l'NB è quasi incomprensibile. Però se va bene agli altri. Dico, sai qual è il nostro problema con i K? Che il noise blanker, così chiamato NB, è un tipo di filtro che stringe troppo. Lui c'ha la modulazione molto larga e quindi è meglio disinserirlo, capito? Mentre invece con i baracchini che non hanno filtro stretto, va bene. Tu lo sentivi bene, Antu? Devi disinserire NB. Io quando ascolto il 45 senza NB, perché con lo sbranker praticamente mi manda in distorsione la modulazione, capito? Sì, però non tu. Mettiti più 4 lì perché sei basso il radio. Lo sai cosa c'ha questa radio? L'unico difettuccio secondo me. Lo smitter. Allora, in poche parole, tu mi arrivi qua da 7 a picchi di 9. Se attacco l'altra radio sei 9,25. Allora, io sono con circa 15 watt a portante bianca e poi va in aumento. E questo coso che sia più sordo, dici, più raro. Tu fatti il conto che a me, Claudio, sull'S9 mi arriva 9 più 15, ok? E qua mi arriva 5 a picchi di 7, una differenza, mi pare un po' strano. Antonio, qua manco lo smitter mi muove, lo sento solo di radio. No, ma non è che tu ne avresti magari girato, non te ne sei accorto. No, non è così, non ne ho rifiuti in girato. No, perché quando tanto cosa c'è rifiuti? C'è l'attenuatore e basta, no? L'abbiamo già riscontrato, gli ho mandato anche un video a chi sei tu. C'è da fare qualche taratura ancora, non è perfetta, perché a me lui qua mi arriva a 9,15 con picchi a 9,18, cazzo, gli arrivo a Santiago 7, ma buffonendici. Io ho sentito lui, mi ha mandato un video anche la volta scorsa e in base al segnale che stava emanando lui come ricevitore anche abbastanza buono, ma adesso poi per quanto riguarda il segnale non so cosa dirti. Io, allora, io dico una cosa, sono strumenti, questo smitter si potrebbe essere ristarato, io non lo metto in dubbio, capito? Tutto, allora. Santiago 9 a portante fissa, vado a modulare se ne scende a 3. Magari c'è da rivedere, magari è una cazzatina, però anche se l'ha calato, potrebbe essere che si sia ristalato. Un attimo, capito? senti. Ascolta, secondo me quando adesso il vulcanizzante è tirato troppo e stai facendo toccare qualche filo uno con l'altro, perché è impossibile che tu innesti così. No, lo dico io cos'è. Dove ce l'hai quel microfono? Ce l'avevo prima, sopra la scrivania. Abbiamo fatto 1000 prove stasera, non innescava. Sopra la scrivania dove? Vicino attaccato alla radio? No, attaccato alla radio, là. Stai innescando perché? Sì. Aspetta, io 430 ce l'ho davanti e ci sto modulando e lo conosco come le mie tasche. Allora, Massimiliano, abbassa leggermente la potenza. Guarda, vedere, ho abbassato la potenza, ma tu la raggiù. Non avevo duca duda, andava bene, comunque. Visto la... quando ti parlo ti perdo, vabbè. Tieni la... Allora, la potenza di quella radio devi tenere. Lo vedi il segnale, c'è l'1, poi c'è, hai sentito un mongo di PC, che non sei tu, amica, hai sentito? No, poi tu Anton mi dici, perché hai iniziato con Santiago Roma, adesso sei 9.10, si è attaccato. Allora, c'è 1 sotto 0, poi c'è 2 sotto non c'è niente, c'è 3 sotto non c'è niente. Devi metterlo a Santiago 3, e non lo devi muovere da lì, perché quella non ha bisogno di scaldare come il 140, quello è un 3 conversioni come il 440, mentre il 680 e il 140 sono 2 conversioni. Metti Santiago 3 in watt. Già lì è la clap, non ti preoccupare. Tanto parla un attimo. 1, 2, 3, 4, prova, 1, 2, vedi un po', ma posso anche avanzare un po' di amplificazione, se non è lenta. Allora, qua su questa radio non mi muove manco lo smitter, ok? Sulla 96 Santiago 6. Sì, vabbè, considera che comunque io non ho antenna, nel senso sì, ce l'ho un'antenna, ma non è che sia l'ideale. No, per farti capire la differenza di questo smitter, hai capito? Tutto qua. Vediti adesso come va bene. Sì, vabbè, io adesso lo sto ascoltando sempre con il NB disinserito, Sì, sì, anche io, non c'è problema. Però anche col 440 fa la stessa cosa. Se non disinserisco l'NB tende un po' a trappare, capito? Però già va bene, dai. Ottimo per la truppa. No. 99, quando diciamo questi spezzoni è un casino tirare sulla potenza, tanto perché fa rientro di RF. No, non è quello il discorso, è che sicuramente non c'ha la tutta massa lui. È bello il massa, non ne ha, io qua, vabbè, c'ho tutti i gialli verdi collegati alle radio, lui lì non ne ha massa perché c'è anche un posto molto, molto ristretto, dai. Lo fa, c'è anche lui, un altro, quello come tu. Ti ho capito, ma non mi hai risposto alla domanda che ti ho fatto. Poco fa sei entrato di Santiago Roma, adesso sei 9.10, sei agganciato. No, non so niente, claro, la regolazione è quella, mi guarda, ce la fai, ci vuoi, adesso non torno, se non faccio il cambiamento, siamo già al massimo, così. Va bene, lascialo al massimo. Avanti io, Massimiliano, va bene comunque, dai. Sì, dai, vi lascio perché ci sente già un buon profumino da qua e devo per forza andare giù a mangiare, dai. Ok, ti ringrazio Antonio, quando ci vediamo in verticale ti offro un grandissimo caffè. Grazie dello spezzone, sei stato gentilissimo. Ci sentiamo, dai, ciao Tino, ciao Claudio, ciao a tutti gli ascoltoni. Ripeto, tutto qua, io vedo solo ed esclusivamente questo riscontro. Poi per il resto è perfettissimo. 1000 per 1000, ok? Massimiliano, fagli un video, glielo mandi e poi saprà lui cosa fare, capito? Non so cosa dirti, tanto ormai è inutile che faccio la passaparola. Siete in comunicazione, no? Quindi non c'è problema. Sì, no, già fatto, gliel'ho già mandato un video e gli ho fatto già un vocale. E niente, dai, tutto qua. Per lui è normale invece, non lo so, comunque. Va bene così, dai signori, vi lascio e vado a nazionale, dai, riprendi tu Antonio che sei il più piccolino, ti ascolto il più bassino, ci sentiamo, dai, grazie ancora, ciao. Aspetto prima di... Guardami un segnale mio, Martino. Ecco, come sta arrivando lì? Allora, portante muta a 7, a picchi di 9. No. Vabbè, l'altro prima arrivava, non so, un pochino di più, credo. Oddio, cazzo, sei più vicino di me. Sei 9 e 18 qua, quasi 9 più 20. Come si fa a dire che tutto va bene? Allora, quella radio, detto da chi sei tu, gli ha detto vai da Claudio e fate le comparazioni, ok? Tra il mio e il suo ci sono 10 punti S di differenza. Tutte e due le stesse radio, in tutte le bande. Vabbè, allora, se ti avete mandato via, qualcosa faranno? Sì, ma gli ha già risposto Massimiliano, che adesso è impegnato, appena si libera, la riprende in mano e fa un'altra taratura. E può essere anche che il generatore ha dato picche, non è detto, è sempre uno strumento, non è la prima volta. Comunque per il resto no, non c'è niente da dire. È perfetta. Perfetta, uguale, precisa, identica, la mia, no, non cambia niente, l'unica cosa che ha è lo Smith, non è che è sorda, è proprio il segnale che è più basso, capito? Però come la ricezione sono uguali, i filtri ce li ho anche io, uguali a quelli, tutti e due, quindi, anzi, io ho anche quello stretto, quello più stretto e quello più largo, ne ho uno in più rispetto a quello di filtro. Va bene, ciao Massimi, buona serata, buon tutto, saluti a casa, già ci aggiorniamo domani mattina, ok? Va bene, Tino, guarda, l'ultima cosa ti voglio dire, allora, qua sei 7, portante muta, picchi di 9, ho commutato l'antenna sull'S9 sei 9,25, ok? Giusto per farti capire la differenza. Ho capito, vabbè, vorrà ricontrollata, dai. Ti confermo che è un bel casinato, non poco, perché l'ho bruciato io purtroppo a causa di rubri, dovevo fare dei lavori e sinceramente non ho potuto dargli una mano e quindi sta facendo tutto quanto da solo e lunedì anche altra gente, è incasinato nero perché sta facendo lavori in casa, capito? Quando magari si libererà credo che la faccia, dai. Non c'è problema, Tino, già va bene, dai. Va bene così, vai Arturo, riprendi tu, dai, non riprendo più, ciao. Bene, ciao, Massimo, buona carica, allora ci ascoltiamo le prossime, vai Claudio. Ciao Massi, dai, tranquillo, già si risolve, quella è una fesseria. È una fesseria, l'hai beccato in questo periodo che è incasinato e anzi si è un po' ripreso da tutti i casini che ha avuto, però so, ne ho già parlato anch'io e so che è incasinato. Va bene, alle prossimine, dai. Eia, ciao Massi, ciao. Buona cena. Comunque, quell'apparato che sta usando l'Antonio, va bene, no? Antonio, mi raccomando, ok? Sono tornato a casa, io. No, perché ho un B300 da mettergli sopra. No, va bene così, liscio, guarda, si tira fuori, si tira bene. Vabbè, quello proviamo, dai. Vitti, te li ho mandati tutti e due. Tutti e due uno a fianco all'altro, io. Il 40 e il 30. Col 30 sto ascoltando in 80 metri. Mi fa una ricezione che è una cosa da paura adesso. Va bene, dai. Va bene. Il colore è leggermente un pochino più chiaro ormai quello di Massimiliano. Il mio è ancora originale, però è perfetto. Un graffiettino proprio all'atto, avevo sbagliato, mi ha scappato il cacciavite, se non manco un graffio lo riesce a radio, ma il frontalino è nuovo nuovo, già va bene, già va bene, ok. E cos'è? Ah, il televisore, riprendi a tutti. Allora, io il mio 430 l'ho comprato 10 anni fa la Walter, dieci anni fa la Walter, è l'unica cosa che mi si è rotto il display che me l'ha sostituito Fabrizio, messo nuovo, comprato negli Stati Uniti, capito? e siccome il display non c'era, era tutto il pezzo unico, mi ha messo display e smitter, tutto nuovo. E basta, ha rifatto l'allineamento e così è sempre da quando l'ha toccata lui. Mai dato un difetto. Il 440, questo che sto usando adesso, perché il mio praticamente è quello che ha Giulio, no? Non glielo ho dato io, gli ha dato Franco California, l'ho voluto a Franco, e io usavo il 430. Poi è capitato che Roberto ne aveva due, allora l'ho comprato da Roberto, però prima di darmelo, di vendermelo, siccome faceva i puntini, anche questo sto usando, il 440, l'ha tutto revisionato Fabrizio l'anno scorso, quindi neanche un anno fa, oppure un anno fa adesso, perché siamo a giugno dell'anno scorso io l'ho comprato. Tanto per curiosità metti il più 4. Ah, più 5 hai. Più 4 non lo posso mettere perché ho più le connessioni invertite. Non ho più 4, più 4 il e il tuo non ha le connessioni omologate. Perché invece le connessioni invertite. Allora non è intacca, ti penso che per un male. E questo momento la pubblicazione innesca. Innescato con la massa all'antenna. Ma no, c'è l'antenna, però lo so cosa intendo. Il manto è copiato per me. Vabbè signori, dai, vi saluto io che mi prendo la partita, mi sveglio una finina, così vediamo se passo bene la notte, ne approfitto da ormai, ciao, divertitevela, sentiamo domani se coincide, segno voglia, dai, se mi sento bene. Ehi, ehi, a te, no, ho comprato, ti mando anche la foto del, ho comprato un MC50, l'ho usato l'altro giorno, ma è una cannonata. Una cannonata, perché te l'ho messo? Che vigilia, non me lo ricordo. Vabbè, se lo trovo te lo mando, dai. Ciao T, ci sentiamo. Dammi bene, tante cose belle. Avanti, Anto. Buonasera. Ehi, avanti, un saluto. Ciao T, ci sentiamo. Lui, se viene domani in radio, io dici che sono in campagna, devo partire Pomponio. E a buonasera a tutti. Vabbè, ciao, ciao, divertita. Aspetta, con... Lo sai, Clark, l'avevo visto anch'io con le MC50, se la prenda 40 euro, è possibile? No, maledoggio, io ho pagato 50, nuovo, nuovo, fatemi due che li ho mandato sotto. Dai, no, ma... Va bene, dai. Io ho pagato 50, ma è perfetto, mi serviva perché è vintage, siccome il mio l'avevo dato a Fabrizio e lui se l'ha modificato, se l'ha fatto per amplificato, io l'ho lasciato normale, ed è vintage e l'ho collegato sul 780, quello che ti stavo dicendo oggi, perché il suo microfono del 780 era Kenwood, capito? Perché è trio Kenwood, non so se lo conosci il 780, se non lo conosci ti mando la foto. No, non lo ricordo però, ma l'ho visto, però come viene in mente, non ce l'ho focalizzato. E adesso ti mando la foto, ciao Antonio. Ciao Pomponio. E quindi praticamente tu hai funzionato con il 1050, quello che l'aveva pubblicato praticamente. Sì, il suo microfono, ho fatto la foto, mi sto lavando dal 780 dell'MC50. Avanti Antonè, poi un altro passaggio, io poi chiudo che vado a cenare. Antonè. Sì, sono rientrato. Sono stati una parlata qua. Buonasera a tutti. Ciao, ben ascoltato. Sì, ciao, anche a te, ben scucito. Sono tutti a Claudio e ti c'è rimasto boh. Papa, a me mi stavano, intanto mi chiamava al telefono, stasera sono sempre un sindaco di Sorso. Sì, ma non c'è due balle e birre, tutta la sera sono questo cazzo di telefono, rispondendo. Quello lì è. Adesso ti mando il coso. Questa qua dovrebbe essere. Aspetta. Ma quello che ho visto io l'altro giorno, e qua c'è il mai utilizzato, ancora con la scatola sua ha portato a vedere le mie fettino proprio del cacchio, ma niente di che. Ed è questo, eccolo qua. Te lo sto mandando. È nuovo nuovo. Il mio nuovo nuovo. Ecco, te l'ho mandato. Questo, ma il microfono del cacchio è brutto. No, ma dai, la foto non c'è il gusto, eccola. Mandalo direttamente a casa. E io già. Sono malato. Sì, mi sta mandando una fotografia dell'apparecchio. Ah, guardalo così, un fotografia non c'è gusto, è meglio portarlo a casa. Sì, portarlo a casa. Sono uscito a trovarlo, è andato un amico. Non lo ha nessuno qui. Quello è il 50, è collegato nella stessa posizione dove c'è il 780. Oh, dai, che è pronta la cena, se no mia moglie si incazza. Ciao Antonello, ciao Antonio, ciao a tutti. Buon fine serata, buon tutto, alle prossime, a domani, ciao, passa e chiudo. Ciao, buona cena. Ci sentiamo alle prossime, vai, Antonio, ci sentiamo, Claudio. Ci sentiamo, ciao, ci sentiamo, buona cena, buon tutto. Ciao a tutti. Avanti, Anto. Segna, e tu, Antonio, tu cosa stai utilizzando? No, no, 87, lo sto usando adesso. E poi ci faccio lo Yaesu quasi banda, nuovo nuovo. Ah, 8, 5, 7 mi pare che, se non ricordo male. Sì, l'ho visto, la parte parte, la persona stavo lavorando proprio sul internet e mi è capitato sotto gli occhi. Sì, sono la fotografia che ho messo io. Ci ho messo quello, ci ho messo tutti gli altri appresso, gli apparecchi che ho nel mobile. Basta, basta. Non voglio occuparsi, boh, basta, troppo speso. Ma tu hai già venduto il servizio? Una generale l'avevo venduto, a Mario Manzi l'avevo venduto, c'era lui. E addirittura c'erano anche le FT 250, gli avevo messo l'omologazione di quella che vendevano alla UPIM e ce l'ho infilata dietro, ce l'ho messa incollata. Quando non riesco posso aver scritto appalato, non ho omologato in concessione. Sì, ma da funziona, certo che funziona, quanti fatti c'ha? 100 ne ha, così gli ho detto, sarebbe guardato, bello, e la monogazione ti l'ha messa questa, ah di certo che non l'ho messa io, gli ho detto, io l'ho comprato così, mi ha detto che l'ha monogato. Poi, vai qua per ricomprarli, a parte che ti creano problemi, capito, c'hanno quelle lamelle dorate, una volta che non fanno più che si forma rossi, non fanno più contatto con Apple, non funziona più niente, quindi è meglio lasciarlo dove le FT7B, capito, c'è quel difetto, c'ha. Sì, c'ho anche il 2009, se per questo. Il Codex 4000 è il 2009 e come si, è il 97, ciao. Io un FM500S un portatile 40 canali, poi due PMR, due Baofeng e adesso mio oggi mi sono sistemato il pacco batteria del corso dell'ICOM 411 Yaesu, cioè non ICOM Yaesu, quello 2000, bello. C'è la tastiera, l'unica cosa è infilarci le batterie che ci stanno giuste e giuste, è stato un casino. Infatti mi sono dovuta fare una casera, solo domani a piace ho lavato qua con la sistema, serve con i mini stilo, c'ha il stilo. Ogni tanto si stacca un filo, non fa un culo, oggi mi ho preso e adesso gli ricambio domani, gli metto i fili fini nuovi perché sono ossidati. E così lo restituisco e mi faccio la retina. Ho speso 21 euro di batterie ieri da Torino e nell'altro pacco invece 30. Infatti così ho fatto, ma dopo a far vado il casino. Adesso domani devo metterci la colla, ci ho messo lo scotch provvisoriamente, adesso me lo apprissi. Domani lo compro l'attacco e gli metto la colla, così almeno non si apre per niente. Shukubu, io un altro di quelli portati è uguale, preciso. Qui a casa, devo fargli anche quel pacco batterie. Già lo so, infatti. Uno, due, la giornata che sono qualche battuta quando lavoravo la cosa, la Marcomicchi. Per carità, le aprivo, poi li chiedevo, ce li mettevo a posto. Era molto vecchio, anzi, addirittura c'erano i pacchi batteria, quelli, c'era Bartolino, capito? Facciamo altro che comprarlo nuovo e farlo prima. Sì, quelli capolista, tutte le ricette. Esatto, sì. Pagato un bel po', però si avvia, io ci aspettavo l'amore, non è calcolabile, basta, mi sei fottuta. A me vanno me era in carica nel tavolino. Ha squillato il telefono e non aveva messo neanche bene. Come ha finito? Ha squillato, ha fatto la vibrazione e ci si è direttamente dal tavolo in terra. Gli ho detto vaffanculo. Infatti si è crepato il vetro. Invece quando mi fate nulla, gli è calato in terra, grazie a Dio non si è crepato nulla, ma col vetro. L'angolo giusto si crepa. Ah beh, quello sì. No, io già lo sto utilizzando così. Anche perché ho abituato di metterci due mazze di chiavi, devo usare la chiave di casa mia e la chiave di casa di mio fratello, perché sono tuttore, quindi devo scendere giù, cambiarlo, eccetera, eccetera. Quindi devo usare sempre due mazze di chiavi. Uno sarebbe San Pietro e l'altro invece ci sono solo quattro chiavi solo, quindi quando comincia a metterci tutto dentro nei jeans, capito? Forza e quindi capito? Guarda, se non mi tocca metterci il telefono dietro e poi magari me lo dimentico, la tasca dietro, mi boso, buco e vado il telefono, saranno, perché ce l'ho qua a casa buttato. Adesso appena c'è un po' di tempo vado a comprarmi la carta Liad, ci metto quella e l'utilizzo di riserva. Thank you. facevo 48-88, e quando finivo qui facevo le chiamate così, a un certo punto mi chiamano un attimo, mi dice se dice no, poi dice no, no, il telefono non può usarlo, ho detto perché non volevo più usare, dice se ve la sento io non avevo dato più niente, gli ho detto faccio la cosa, ho detto elimini il numero, ho detto se ve la date a fanculo, ho detto beh, perché sai, e dice abbiamo scoperto, dice che lei ci ha duplicato, oh, gli ho detto non me ne sono, e ha detto lo sa prendere con me, lo sa prendere con scarpa, gli ho detto vabbè che ha fallito adesso, gli ho detto non faceva questi giochetti, si vendeva due carte, hai capito, faceva il duplicato, cioè in pratica quello caricava a me e caricava a lui. No, non sapevo nulla, andavo a caricare ogni tanto 20-30 euro e duravano neanche un mese, hai detto che è strano, poi adesso ho detto adesso se la pigliano in culo, faccio direttamente 48-88 e mi faccio chiamare, parlavo tranquillamente a gratis finché non sono arrivato alla cifra di 100 euro, capito? Allora mi hanno bloccato. Intanto residenti, adesso li fregate un attimo, gli ho detto non ne prendo più timmi, non manco se si ammazzano, allora ho passato un'ora fuori, frecco, frecco, e poi ho fatto un po' sti mumoli, ho fatto, e tu immagini che io ho 15 carte che sono tutte intestate a me, quando sono andato la scarpa per prendere una carta alle posizioni accorti che ho 15 numeri di telefono intestati a me, io ho detto cazzo, di eliminare tutti io, adesso sai quelle carte che fino ho fatto, se sono scadute, boh. Ecco, avanti. Buongiorno. Buongiorno anche a lei, dottore. Come ti sta arrivando? Un po'. Buongiorno a tutti, buongiorno, no, non so nemmeno chi c'è in ruota, è che ho sentito Antonello e volevo vedere se il mio segnale è cresciuto. E in fondo scala qua. Poi chi è che c'è anche? Sì, buongiorno, Antonio. Ciao Antonio, ti ricordi qual era il mio segnale prima? Vabbè, ma ti sta arrivando forte, qual è la zona di modulazione? Va bene, allora va bene. Sì, fondo scala Fabio, come una volta, tale uguale. E io ho sollevato un po' l'antenna, dai, è a 12 metri altezza adesso, dal terrazzo. Ah, quindi hai messo la mantova sopra? Sì, la mantova è la 510, c'è. Ah, va già, va bene, stai scendo benissimo. Poi io la vedo da qua a casa, mi combinocolo. La vedevo benissimo, vedevo addirittura la direttiva dai rocchi. Se vuoi puoi anche sparare e riesci a beccarla. No, quello la mia risiedo potevo farlo al limite, che veniva meglio da lì, capito? Aspetta, c'è una prova, car. Quanto avaro il mio Smith, vabbè. Vado in ricezione o in trasmissione? Come? Vado come, in trasmissione o in ricezione? No, lo strumento è proprio, non dà picchi, non dà niente, è proprio IPP adesso e quindi è fermo, vabbè. Ah, ho capito, allora, va bene. Avanti, no, già lo so, se vuoi posso fare anche così, aspetta. Forse così qualche picco in più c'è, però non mi piace, aspetta, lo porto. E così com'è il segnale, per favore? Facciamolo così allora, dai, che ce va bene. Allora va bene, allora Pompugno gli sta entrando dentro casa. Come minimo sì. E io vabbè, perché non è che c'ho altri, un Pony 23 canali sto usando, di quelli vecchi, con un microfono, boh, non ce n'è nemmeno la marca. Bene, no, sto facendo un paio di prove, che sto facendo un sacco di lavori, ma non sull'antenna e altri, quindi ero qua che stavo guardando due cose al PC e ho acceso e ho sentito chiacchierare te, ci vediamo se sta uscendo, che non riesco a fare prove su altre cose, va bene. Qua siete solo voi due, se no avrei fatto qualche prova anche con qualche d'un altro. Siamo solo voi due, siamo. Lo so che sì, non sta male, lo so. E va bene, vediamo, adesso mi si faccio, vediamo se entra qualcuno dal Ghero, aspetta, metto, aspetta un attimo, vediamo un attimo se entra qualcuno dal Ghero. Io sono vicino a via Domenzoni. E qui è alta l'antenna, quindi non c'è problema. Metto sto, sono qua. Sto usando questa velta, sto usando del CP, no, il CM40 Special. Solo con la 87 pompa così questo microfono. Se attaccato al 2009 pompa rivela, ma questo è, vabbè, la 87 è un risultato bellico, però pompa perché io ho staccato il 3,10 metri, capito? No, ma questo no, quello non gli ho toccato, solo il trimmer. Bene, ma come hai detto la sì, c'avevo quello, poi l'avevo dato. Ma ah, stavolta c'erano su internet tutti 50 euro erano i microfoni, c'era il Saletta, l'Echo Master e poi l'altro Saletta, quello che c'ha il coso inclinato. Esatto, sì, c'era quello lì, c'era tutti 50 euro, c'era uno tre, c'era oggi invece c'è un barattino con la camera Echo. Molto che in pratica c'è 50.4, mi pare che è la camera Echo e cos'era? E il microfono, anche c'è un microfono addirittura, mi pare non sa verità, 100 euro in tutto. Ah, è di quelli io ne trovi più. Adesso c'è questo di DM1000, se ce lo sai, che c'ha l'effetto Echo. Senz'altro. E funziona bene con la riscola, già. Ci ho piazzato la riscola sopra. E riceve tutto, anche il 27 di vettura va, funziona. Mi sembra che è Daimon questa, non mi ricordo, c'è mio cognato me l'ha regalata, poi mi ha regalato la cosa, la X30 e quella l'avevo data. L'unica cosa che ho qua che mi è rimasta è la X300. No, va in trasmissione, c'ha lo stiletto d'acciaio, c'ha, non molto lungo, e poi c'ha tutti quei radiali. Senz'altro magari l'avrà data qualcuno, mentre di strano. Via, Monolava perlomeno, Giancarlo si chiama, Giancarlo, a Paracchino, non mi ricordo adesso, da Ossi. Non sta. E sono separati solo comunque da quest'anno, ognuno per i fatti suoi. Ma non sai che non ho più visto, so che ho messo male me. Ma non l'ho più visto. Il padre già è... mi pare che è morto il padre, se non mi ricordo male. Proprio lì via Baldini, di fronte a casa lì, ti ricordi quei due che modulavano? C'era con la, mi sembra la mantova lì, figurati. Lì ci abitava anche quella di Mattore, non mi viene in mente, che c'è il camion. Quello è sparito da dire sound, non ho più sentito. Pensate che era il figlio di Giorgio, pensate, se poi c'era anche l'altro fratello che modulava. Sono fratelli di due mogli diverse, perché Giorgio era sposato con due tipi diversi. Piazzetta. lei abita a Sosso, ma sale sempre tutti i giorni la sorella, da Sosso a Sasso, allora vanno a Via Piazzetta e al bingo. Paoletto è grande, ci avrà non si tanti Natali, ce ne avrà senz'altro, 65 penso 60. Buoni, non ti preoccupare. Ehi, c'è la registrazione, c'è su internet. Ce l'avevo, poi avevo pensato di complicarmi la cosa, mia nipote me l'ha cancellato. Ma c'è comunque ancora. Il sito c'è. Come cavolo era? Beh, non mi viene in mente adesso, mi sono fatto usare la lingua a quel sito. Altre viste, non mi ricordo che cosa poi tutto, non me lo ricordo adesso. E c'era, era scritto in pratica per Paolo Falcone. Se avessi dato adesso, sono usciti quei PMR, se dai il PMR in mano quello rientra, mi vedrai. Già arriva la sosa sassa e a voglia. Già glielo fa Franco di Soso, al limite, tanto sono vicini. Allora, poveretto, due incattature si brigliava, poi c'è fammi che ci cercava, numero di telefono mio, nome e cognome mio, tutti i giorni. Uno che c'era con il mio Kawasaki, poi si era pigliato anche qualcosa, un sacco di niente. Mi ha detto l'altra volta che ho visto a Pino Drago lì al centro storico, ho detto mica è stato Falcone. Ho detto sì, adesso quando mi compro il baracchino, e dove hai comprato? L'ho detto così, me lo ci parli di nuovo, lo faccio e lo fai schiattare. Però abita anche la Marmola adesso, prima abitava vicino a Torre Sagittario, e c'è il circo. Esatto, ci lasciavano la casa dei piani, e mi sembra lasciato la figlia, una figlia, è vero. Perché non bisogna traslocare. Abitavo vicino a cosa abita? Intanto è che se moglie di Torino Kawasaki, saranno se no 500 metri di galaria so. Io mi sembra che ho fidanzato sposato con una polacca, non mi ricordo adesso. La moglie era sempre magra, te la ricordi? Io quando una volta arriva sempre al quadrato, allora c'erano i soldi e quindi lì alla torre se arrivavano, capito, per cantare un sacco di gente. E quindi andavamo tutti i cibi, tutti lì al quadrato. Ah beh, io al quadrato vedo solo quelli che mi che provano le moto, la sera ci mi bici urbani che li mi seguono. Fermi, ogni sera tu guardi verso le 7 e 8, poi si mettono e poi ti vedi i bici urbani uno d'angolo e l'altro, dice vieni qua, vieni. sentiamo al limite domani. A domani, dai. Ce ne sarà più di una, vuole dire, il barattino messo in casa così si mette a ascoltare. Ok, ciao ciao.